notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Piove ancora e ancora trema la Liguria. Allerta 2 sul Levante, chiuso un tratto della A10, allagamenti e sfollati nell'Alessandrino. Disordine a Milano durante lo sgombero di case occupate, mentre a Roma ieri si sono registrate nuove proteste contro i rifugiati all'Infernetto. Altri 864 profughi sbarcati a Pozzallo, mentre sarebbe in atto uno scontro tra la Marina Militare e l'Europa sulla gestione dell'operazione Triton. Esce oggi il quarto disco degli One Direction, la boy band che continua a macinare record nei preordini. L'album è primo in 67 paesi. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre, se volete potete scriverci a effettogiorno@radio24.it. Durante la trasmissione al 349-238-6666 c'è anche, come sempre, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Nel nord iniziamo da qua. E iniziamo ancora da qua. Ci sono intere zone in ginocchio, come la provincia di Alessandria, mentre si attende una nuova piena del Po e si teme per Piacenza. Milano fa ancora i conti con l'esondazione di Seveso e Lambro di due giorni fa, e su questo torneremo più avanti con l'inchiesta di Daniele Biacchessi, ma soprattutto piove ancora in Liguria, piove ancora su Genova. Andrea Ferro, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Negli ultimi minuti la pioggia si sta intensificando nelle zone interne lungo la costa del Tiguglio, l'area colpita dall'alluvione di una settimana fa. È qui che si sta concentrando una cella temporalesca, è qui che sale la preoccupazione. I sindaci del Chiavarese rinnovano l'appello: rimanete in casa. Su tutto il Levante Ligure, lo ricordo, fino a mezzanotte è stato di allerta 2, il massimo. Su Genova e l'entroterra piove a scrosci, ora anche violenti. La situazione è sempre drammatica sul fronte delle frane. Sono centinaia le persone isolate nei borghi, nei paesi, nelle frazioni. In tutta la Liguria, pensate, sono 300 le strade interrotte. E stamane è stata nuovamente chiusa anche l'autostrada A10 tra i caselli di Voltri e Pegli. Da Savona verso Genova il traffico è paralizzato ed è notizia di pochi istanti fa. Ora è stata temporaneamente aperta una corsia per smaltire l'ingorgo. Si parla di 12 chilometri e ancora senza esito sono le ricerche del corpo del pensionato ghermito sabato mattina dalla piena di un torrente a Ferraricò. Simone. Sì Andrea, e questa mattina a Genova è arrivato anche il sottosegretario Delrio insieme al capo della protezione civile Gabrielli. Che cosa è emerso dagli incontri di oggi? Prefettura, c'è stata la prima tappa del tour di Del Rio e Gabrielli tra le zone alluvionate. Ora si trovano ad Alessandria, nel primo pomeriggio saranno a Milano. Nel vertice di stamane hanno incontrato gli amministratori locali e sindaci dei comuni colpiti a più riprese dalle alluvioni. Il patto di stabilità non deve essere un problema per chi ha subito eventi catastrofici, ha detto Del Rio e ha aggiunto: i sindaci non devono avere limitazioni sugli interventi di somma urgenza, prima viene la sicurezza. Ha parlato poi di un'emergenza complicatissima, ma che è stata anche la dimostrazione di un'Italia operosa e solidale, della quale essere orgogliosi. Ma ascoltiamo Del Rio. Certamente il patto di stabilità per il ripristino delle opere pubbliche, per gli investimenti, per la messa in sicurezza non deve essere un problema. Altro punto importante che ci è stato sollevato è quello dei mutui. Noi daremo la facoltà a tutti i comuni italiani di rinegoziare i mutui esistenti, quindi di rinegoziare a nuovi tassi, e daremo la possibilità quindi anche di accendere nuovi mutui a tasso zero per oltre 3 miliardi. Sono tutte misure già inserite in legge di stabilità e quindi mi sembra che questo problema possa essere affrontato in maniera molto seria. Grazie Andrea Ferro per questi aggiornamenti. Di tutto questo torneremo a parlare più avanti in Effetto Giorno. Ci occuperemo ancora del caso di Genova e torneremo sulla vicenda del Seveso a Milano. Come sapete, come avete sentito appunto, il sottosegretario Del Rio sarà oggi pomeriggio qua. C'è stata una bomba questa mattina davanti a una filiale della Deutsche Bank a Napoli, bomba che però non è esplosa. Laura Viggiano, buongiorno. Sì, buongiorno, per fortuna non è esplosa. Secondo una prima analisi conteneva circa un chilo di esplosivo il pacco bomba posizionato davanti alla Deutsche Bank di via Mascagni nel quartiere collinare Vomero a Napoli. Secondo gli artificieri non poteva essere innescato a distanza, ma poteva esplodere. All'interno c'era un detonatore, ora si sta verificando se sia stata azionata la miccia e se per un malfunzionamento non sia riuscita a far esplodere l'ordigno. Questa mattina il pacco sospetto di 8 cm di diametro e 25 di lunghezza è stato notato dai dipendenti che hanno chiamato i carabinieri e i vigili del fuoco. Gli artificieri hanno distrutto l'involucro con un cannoncino d'acqua, poi si sono occupati del contenuto. Tanta paura e varie le ipotesi legate anche al fatto che 10 giorni fa sono stati esplosi colpi di pistola contro vetrine e palazzi di alcune strade del quartiere. In ogni caso si ipotizza anche che sia tutta opera di ladri che volevano far saltare il bancomat. È tutto lì allo studio. E grazie a Laura Vigiano per questi aggiornamenti. Allora, mentre il nord è sotto la pioggia, le condizioni del mare tra la Sicilia e l'Africa consentono ancora il movimento di migranti. Ieri sono sbarcate altre 864 persone a Pozzallo, salvate in mare e trasportate dalla nave San Giusto della Marina Militare. Dall'inchiesta emerge tra l'altro che era stata realizzata una pagina Facebook per organizzare il viaggio. Intanto pare che ci sia uno scontro proprio tra la Marina e l'Europa per l'organizzazione appunto dell'operazione Triton. Sentiamo. Da Varsavia sono più perplessi che irritati che la Marina Militare Italiana fatichi a cedere il comando nel Mediterraneo con il termine a fine anno dell'operazione Mare Nostrum si sapeva. D'altra parte, grazie alle nostre navi, sono state salvate più di 100.000 persone. Ora la lettera mandata all'agenzia europea Frontex per avere il comando di Triton e il no secco dell'Unione ne è la riprova. Ma dagli uffici di Frontex a Varsavia appunto fanno notare che se la Marina ha condotto Mare Nostrum con grandissima efficienza, i regolamenti europei non permettono che il controllo delle frontiere sia affidato a un corpo militare. In Italia, secondo un decreto del luglio 2003, il coordinamento che si estende fino al limite di 24 miglia dalla costa va affidato alla Guardia di Finanza, quindi Triton ha schierato la sua base internazionale nella centrale delle Fiamme Gialle di Pratica di Mare, dove arrivano le informazioni sull'intero Mediterraneo. La portavoce di Frontex, Isabella Cooper. Qui non è cambiato nulla, insomma noi siamo presenti in Italia dal 1° novembre e dal nostro punto di vista non cambia niente. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sbarchi di migrati, spesso rifugiati, che finiscono nei centri di accoglienza, come quello di Tor Sapienza. L'assalto dei giorni scorsi sta mettendo nuovamente sotto gli occhi di tutti il problema delle periferie, specie quelle romane. Tor Sapienza fa scuola e la protesta anti-immigrati comincia a dilagare in altre periferie romane. Ieri è toccato all'Infernetto, una zona sud di Roma dove sono arrivati alcuni minori trasferiti in fretta dal centro di Via Morandi dopo l'assalto con bombe carta e bottiglie. Noi qui non ce li vogliamo, hanno risposto i residenti organizzando un sit-in in Via Solorno dove si trova la struttura che ospita i rifugiati. Ma questa volta il sindaco Marino non ripete lo stesso errore di Tor Sapienza e si reca subito nel quartiere per incontrare cittadini e migranti. Ma intanto altri comitati di quartiere nella capitale in queste ore si stanno preparando a possibili battaglie anti-immigrati, come in via Alessandrino, dopo che è girata la voce di un possibile trasferimento di stranieri in un edificio vuoto a via Casilina. Insomma, tante gatte da pelare per il sindaco Marino che si aggiungono alla vicenda delle multe. Per ora il sindaco non molla, anzi si dice straconvinto di potercela fare ad andare avanti, ma il PD romano con cui Marino si vedrà domani gli sta con il fiato sul collo e ha già chiesto di azzerare la giunta. Probabile che alla fine si arrivi ad un rimpasto. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E due persone sono state arrestate dalla polizia a Milano a seguito delle violente proteste avvenute questa mattina contro lo sgombero di un appartamento Aler, insomma delle case popolari, occupato abusivamente in via Vespri Siciliani. Durante i tafferugli un agente è stato ferito alla testa da un mattoncino lanciato da un gruppo di contestatori, circa una cinquantina. Il poliziotto è stato trasportato in ospedale per suturare un taglio e le sue condizioni non sono gravi. Saluto l'ingegner Bruno Mioni, che è direttore dell'AIPO, che è l'Agenzia Interregionale per il Po. Buongiorno, ingegner Mioni, benvenuto. Buongiorno a lei. Qual è la situazione del fiume? Ci sono rischi per città o zone abitate? Allora, la situazione del fiume in questo momento possiamo dire che il colmo sta transitando a Piacenza, con dei livelli di circa mezzo metro superiori a quelli della settimana scorsa, per cui andrà poi lentamente, molto lentamente verso valle ad interessare la zona mediana di Po, quindi parliamo delle province di Parma, di Reggio e di Mantova, per poi arrivare fino al mare nelle prossime giornate. Sono state naturalmente evacuate tutte le golene aperte così come la settimana scorsa e in questo caso a titolo precauzionale anche tutte le golene chiuse. Quindi ci dice che appunto per le zone più densamente abitate non ci dovrebbero essere problemi, naturalmente. Problemi di livelli no, gli argini di Po sono stati ringrossati, rialzati, rinforzati dopo le piene del 94 e del 2000, qui siamo a dei livelli inferiori sia al 94 che al 2000, quindi al momento criticità non ce ne sono. Grazie all'ingegner Bruno Mioni, direttore dell'AIPO, l'Agenzia Interregionale per il Po, per questo aggiornamento. All'estero, 6 soldati e 3 poliziotti sono morti nelle ultime 24 ore nell'est dell'Ucraina, nel conflitto contro i separatisti filorussi. Lo riferisce il centro stampa delle operazioni militari di Kiev contro i separatisti. Inoltre sono rimasti feriti 9 militari e 5 poliziotti. E oggi, proprio a proposito di Ucraina, si riunisce il Consiglio degli Esteri europeo. Sentiamo il ministro degli esteri italiano Gentiloni al suo arrivo. Il governo italiano ha mostrato e sta mostrando fermezza sulla crisi ucraina, ma ora dobbiamo essere consapevoli che gli sforzi devono andare anche alla ricerca di una soluzione politica. Non esiste l'idea che si possa risolvere il problema o solo con sanzioni o tantomeno con soluzioni militari. Quindi la fermezza è utile ad aprire il varco per una soluzione politica. Queste le parole di Gentiloni. C'è un altro tema all'attenzione della comunità internazionale, naturalmente la vicenda dell'ISIS dopo la nuova decapitazione di ieri, dopo la scoperta di 2 studenti, uno britannico e uno francese, tra le file dell'ISIS, si sono stati riconosciuti dalle foto che si sono diffuse nelle scorse ore. Un'altra vicenda sulla quale il mondo sta gettando gli occhi è una vicenda economica ed è quella giapponese. Giappone che torna in recessione. Il Giappone entra ufficialmente in recessione e si avvia elezioni politiche anticipate come un referendum sulla Abenomics. A sorpresa, nel terzo trimestre di quest'anno il PIL reale giapponese si è contratto dello 0,4% sul trimestre precedente, dopo il crollo dell'1,9% del secondo trimestre, seguito al rialzo dell'IVA scattato il 1 aprile. I consumi privati si sono ripresi solo dello 0,4%, la metà di quanto ci si attendeva, a segnalazione dell'impatto perdurante sulla spesa delle famiglie derivante dall'incremento della pressione fiscale. Il premier Shinzo Abe è tornato questa mattina dal G20 in Australia e secondo tutte le attese domani dovrebbe annunciare lo scioglimento della Camera Bassa e la convocazione di elezioni politiche per il 14 dicembre. Una decisione che prenderà insieme a quella di rinviare il previsto nuovo aumento dell'IVA al 10%, rinnegando i rigidi impegni in atto per il risanamento delle finanze pubbliche. La borsa di Tokyo ha reagito negativamente alla amara sorpresa macroeconomica e ha chiuso in ribasso del 3% sotto quota 17.000, mentre lo yen, dopo nuovi minimi da 7 anni sul dollaro, ha cominciato a rafforzarsi. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. Abbiamo parlato di periferie romane e c'è una vicenda di queste ore che incrocia il tema delle periferie romane con quello del calcio. Non solo i petardi e i fumogeni di San Siro che hanno macchiato la serata di Italia-Croazia. Forse, per molti aspetti, fa ancora più paura quanto accaduto ieri mattina al campo sportivo di Magliano Romano, sulla via Flaminia, alle porte di Roma. Si giocava la partita di campionato di terza categoria tra la squadra locale e l'Ardita San Paolo, simbolo del calcio popolare nella capitale. A metà primo tempo sugli spalti e poi in campo fanno irruzione una quarantina di giovani incappucciati, armati di spranghe e bastoni, che si avventano su giocatori e tifosi avversari. Bilancio, partita ovviamente sospesa, 4 feriti ricoverati con escoriazioni, ecchimosi e fratture con prognosi tra i 10 e i 40 giorni. 9 gli arrestati, tutti militanti di estrema destra incastrati da un carabiniere fuori servizio che, presente al campo di gioco, è riuscito a prendere le targhe delle auto in fuga dopo l'agguato. Vetture poi sequestrate, dove sono stati trovati passamontagna, spranghe, tirapugni. Insomma, un raid premeditato e studiato in ogni dettaglio. Su un campo, vale la pena ricordarlo, di terza categoria, uno dei tanti dove la domenica mattina padri e figli vanno magari a vedersi mezz'ora di partita, dopo la messa e prima di pranzo. Il calcio di tutti noi, insomma, vittima e ostaggio di chi sceglie proprio quei campi per giocare la partita sbagliata. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Piove ancora e trema ancora la Liguria, allerta 2 sul Levante. Come avete sentito è stato riaperto il tratto della 10, ma ci sono 11 chilometri di coda, allagamenti e sfollati nell'Alessandrino. Intanto il sottosegretario Delrio a Genova promette un patto di stabilità più flessibile. Un chilo di esplosivo davanti ad una sede di Deutsche Bank a Napoli, ma la miccia si è spenta e la bomba non è esplosa. Disordini a Milano durante lo sgombero di case occupate, un agente ferito, non è grave per fortuna, mentre a Roma ieri si sono registrate nuove proteste contro i rifugiati all'Infernetto. Altri 860 profughi sbarcati a Pozzallo, mentre sarebbe nato uno scontro tra la Marina Militare e l'Europa sulla gestione dell'operazione Triton. Esce oggi il quarto disco degli One Direction, la boy band che continua a macinare record, ne parleremo tra poco. E ritorniamo su Genova però nel frattempo e sulla Liguria, anche sollecitati da alcuni sms che ci sono arrivati da voi nei giorni scorsi. Facendo un rapido conto, per quanto approssimativo, parliamo di 15 giorni di allerta meteo negli ultimi 40 giorni, 7 giorni di chiusura delle scuole. Alcuni di voi ci hanno scritto: ci sentiamo prigionieri. Allora, per cercare di far capire anche a chi è fuori da queste situazioni che cosa succede in queste situazioni, io saluto Marco Lombardi, che è professore di sociologia all'Università Cattolica di Milano ed è direttore scientifico della Scuola Superiore di Protezione Civile e si occupa anche evidentemente di psicologia dell'emergenza. Che cosa succede in questi casi, professore? E buongiorno naturalmente. Buongiorno a tutti voi. Beh, la cosa è semplice e complicata. Noi usiamo la parola stress spesso per definire queste cose. Non necessariamente poi servono le emergenze, no? Diceva Bukowski: non sono le tragedie che mandano l'uomo al manicomio, non la fine del suo amore, ma il laccio delle scarpe che si spezza proprio all'ultimo minuto. Cioè, un imprevisto genera stress. È chiaro che un'emergenza come quella di Genova, altro che imprevisto, è. Insomma, quando si rompono le routine e il nostro organismo è chiamato a dare una risposta che non è in grado di dare perché non era prevista, perché non può utilizzare qualcosa di abitudine nel riorganizzare la propria vita per adattarsi a un ambiente che è cambiato, ecco che ci si trova in uno stato di stress. Allora, questo è, come dire, una definizione di stress in generale. Qua parliamo di fatto di uno stress costante, cioè una situazione che si perpetua. Nel momento nel quale vedi una nuvola nera nel cielo è il momento nel quale già pensi: devo salire al piano di sopra, scatta un'emergenza, devo andare a riprendere i figli a scuola, se ci sono naturalmente, se le scuole sono aperte. È una situazione di timore costante per sé, per la propria vita e per gli oggetti fisici, no? I negozi, certo, insomma, le case. Certo, però distinguiamo, è una situazione di incertezza, insomma, non si sa dove vanno a finire le cose, che è diversa da una situazione complicata, e la situazione di incertezza è quella che genera stress. Nell'ambito di un'emergenza come quella in qualche modo annunciata, si sottolineano in particolar modo alcuni aspetti relazionali, diciamo per esempio l'arrabbiatura nei confronti dei quali aveva la responsabilità di far sì che una cosa, come lei ha detto, annunciata non dovesse ad accadere. Ecco che si mischiano allora aspetti che rimandano ai sentimenti, alle emozioni, ad anche problemi fisici, ad altri problemi che sono più tipicamente relazionali, come in questo caso, in cui fare affidamento a qualcuno che avrebbe dovuto aiutarci non c'è, come è le istituzioni nel caso specifico di Genova a cui si sta parlando. Ha degli effetti a lungo termine uno stress di questo tipo, professore? È una bella discussione, tuttora in corso. In realtà in sé non ha degli effetti a lungo termine se già una patologia non è prevista nel soggetto che è a stress, diciamo così, o esposto allo stress. Insomma, potrebbe essere fungere da catalizzatore da condizioni che già ci sono. Non è che ci soddisfi molto questa definizione scientifica, se vogliamo, ma diciamo che non è una causa diretta, magari si nota aumento di uso di alcune sostanze, ma in genere questo rientra alla normalità quando si esce dallo stress. Insomma, magari bere qualche cosa di più, fumare di più, così come sentirsi nervosi, fa parte del momento di stress, ma non dovrebbe perdurare, a meno che non ci siano delle predisposizioni che sono solo innescate dalla situazione, ma non trovano causa nella situazione. Grazie Marco Lombardi, professore di sociologia all'Università Cattolica di Milano e direttore scientifico della Scuola Superiore di Protezione Civile. E noi torniamo all'estero adesso per parlare di ISIS, come vi abbiamo detto ci saremmo ritornati, ed eccoci per parlare naturalmente del nuovo atto di ieri, la decapitazione di un cittadino americano di 26 anni. E in aggiunta, sono notizie di oggi, dalle foto che sono state diffuse da ISIS in queste ore, della presenza di figure che ormai abbiamo imparato a conoscere, insomma gli jihadisti occidentali, per così dire, uno studente britannico e uno studente francese, appunto riconosciuti nelle foto che sono state diffuse in queste ore. Stefano Silvestri, past president dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali, buongiorno e benvenuto, ex anche sottosegretario della difesa del governo Dini, esperto di difesa e relazioni internazionali e spesso ospite di Radio 24, tra l'altro. Silvestri, benvenuto. Grazie. Buongiorno. Allora, alcuni analisti hanno identificato l'atto di ieri di ISIS, questa nuova decapitazione, come una sorta di segnale di debolezza, perché insomma sono stati colpiti duramente, al-Baghdadi è stato probabilmente ferito ed è un modo per riaffermare la propria forza e la propria presenza. Lei che dice? Ma sì, è probabile, diciamo che questo tipo di azioni hanno un doppio effetto, uno all'esterno per riconfermare la loro ferocia, diciamo, questa loro immagine di ferocia che gli serve per intimorire gli avversari, e l'altra all'interno per riaffermare la necessità di una totale fedeltà, che probabilmente non è poi così sicura, perché la coalizione dell'ISIS è molto composita, in parte tribale, in parte ex militari di Saddam, c'è un po' di tutto dentro, e quindi diciamo queste decapitazioni secondo me hanno un doppio scopo, interno e esterno, ecco. Quindi hanno un doppio scopo. Le vorrei chiedere, Silvestri, un suo giudizio generale sulla strategia che sta adottando l'Occidente in queste ore, perché l'impressione è che l'efficacia non sia proprio massima, per così dire. No, il vero problema è che purtroppo le tre maggiori potenze presenti nell'area, la Turchia, l'Iran e l'Arabia Saudita assieme con l'Egitto, hanno tutti e tre, ognuno dei tre ha interessi diversi da quello dell'altro, e nessuno dei tre ha intenzione di favorire l'altro, è un po' come ognuno vede la situazione come una sorta di gioco a somma zero, qualsiasi cosa avvantaggia l'altro viene visto come una perdita per sé. E quindi il risultato è che ognuno, avendo una sua agenda, nessuno mette in realtà la distruzione dell'ISIS al primo posto. E questo è un problema per chi, come noi, come gli americani, vorremmo restare al di fuori della regione, sia pure aiutando nella lotta contro questo stato terrorista, insomma. Ed è il vero problema, è un problema politico molto grave, ed è il problema che probabilmente avvelenerà il Medio Oriente nei prossimi anni. Certo, se a un certo punto la minaccia dell'ISIS dovesse crescere al di là dell'area iraco-siriana e andare per esempio in Libia, dove ci sono indicazioni di questo genere, nel Sahel, dove ci sono anche indicazioni di questo genere, in Africa, allora probabilmente saremo costretti a cercare di forzare la mano a questi attori regionali o a intervenire direttamente, che è però anche una soluzione non necessariamente perfetta, ecco. Grazie Stefano Silvestri, past president dell'Istituto Affari Internazionali. Ci fermiamo, ci ritroviamo con la borsa, e poi nella seconda parte della trasmissione sentiremo Catiuscia Marini, presidente della regione Umbria, sul caso del professore, forse lo avrete visto sui giornali, che avrebbe insultato un ragazzino perché gay e lo avrebbe anche picchiato in classe. E poi andremo alle esondazioni del Seveso, cercheremo di fare un punto. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Maltempo, piove ancora e in Liguria c'è ancora paura perché allerta 2 sul Levante, un tratto della 10 è stato riaperto ma ci sono 11 chilometri di coda, i sindaci dell'Alessandrino dicono bisogna riconoscere lo stato di emergenza, il sottosegretario Del Rio promette un patto di stabilità più flessibile. Ci sono stati disordini a Milano durante lo sgombero di case occupate, c'è un poliziotto ferito, mentre a Roma ieri si sono registrate nuove proteste contro i rifugiati all'Infernetto. Un chilo di esplosivo davanti ad una sede di Deutsche Bank a Napoli, la miccia però si è spenta e la bomba non è esplosa. La borsa. Borse in diretta. Ed è in questa giornata la borsa in sostanziale parità, il FTSE MIB al momento almeno a metà giornata, guadagna lo 0,08%, il FTSE All Share lo 0,05%, Parigi in calo dello 0,31%, Francoforte dello 0,17%, Londra cede lo 0,20%, dopo che questa mattina Tokyo era calata del 3% sulla scorta della notizia che il Giappone è tornato in recessione. Notizia Isabella Tasso, Radio Corriere Sole 24 Ore, che non sembra aver avuto un particolare impatto sui mercati europei. I mercati erano partiti su una nota piuttosto negativa, Milano era arrivato a perdere quasi l'1%, poi hanno recuperato man mano terreno riportandosi, come dicevi, intorno alla parità, leggermente sopra la parità nel caso di Milano. Ora c'è attesa per l'audizione del presidente della BCE, Mario Draghi, all'Europarlamento in calendario alle 15.30. Brevemente, singoli titoli da segnalare o singoli settori, Isabella? Sì, gli spunti oggi non sono moltissimi sui singoli titoli, fra questi prosegue la corsa di World Duty Free che guadagna oltre il 3%, la corsa era iniziata venerdì pomeriggio dopo la diffusione dei risultati, la nomina del nuovo amministratore delegato e la promessa di un nuovo piano industriale entro gennaio, azzera le perdite anche Autogrill che in mattinata era stata colpita dai realizzi dopo i guadagni della scorsa settimana. Per quanto riguarda le borse prevale il segno meno con un calo in media dello 0,5%, in controtendenza il Monte dei Paschi che fa più 1,6 e Carige fa più 1,7, le due banche bocciate dalla BCE su cui il mercato scommette per possibili operazioni di fusione con altri istituti. Grazie Isabella Tasso, Radio Corriere Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il luogo, una scuola di Perugia, la scena, un professore gira per i banchi, dice fissando un ragazzo, essere gay è una brutta malattia e poi certo che dico a te, è brutto essere gay, tu ne sai qualcosa. E il ragazzo risponde, sicuramente, da quando conosco lei. E il professore reagisce sferrando due calci alle gambe, poi lo colpisce con due pugni alla spalla, lo prende per forza per il collo. Questa sarebbe stata la scena. Saluto Catiuscia Marini, che è presidente della Regione Umbria. Buongiorno Presidente, benvenuta. Buongiorno a voi. Avete conferme su questa vicenda? Io ho parlato con il direttore dell'ufficio scolastico dell'Umbria, in realtà l'episodio risale all'11 novembre, la scuola si è mossa immediatamente e tempestivamente appena i genitori hanno informato la preside, c'è tutta una indagine interna, c'è anche una denuncia penale presso l'autorità giudiziaria e la scuola e l'ufficio scolastico dell'Umbria ha trasmesso tutto al ministro con una redazione dettagliata sia in relazione a eventuali provvedimenti disciplinari sia ovviamente per la parte penale che può riguardare il singolo docente. È una scuola nel comune di Assisi. Ovviamente essendo oggetto di denunce, di querela e anche di difesa da parte del docente chiamato in causa, l'oggetto del diverbio con l'alunno sono a conoscenza di quello che è apparso sulla stampa e quindi siamo limitati a questo e ovviamente se le indagini di polizia e quanto emerge dalla scuola confermano le battute di stampo omofobo siamo in presenza di un episodio gravissimo, molto molto grave. In presenza di un episodio gravissimo, ma da quel che lei sa il professore si discolpa, cioè dice non mai detto questo niente di questo genere. Il professore, io ho letto solo quello che viene riportato dalle agenzie di stampa e da, credo, dichiarazioni pubbliche che il docente ha fatto. Sì. Quindi non si sa niente di no, dettaglio. Sappiamo, però questo. Io voglio, credo che sia importante questo, siamo in presenza di un singolo docente, di un'azione penale che è stata tempestiva perché le forze di polizia allertate dai genitori hanno immediatamente raccolto le testimonianze sia all'interno della scuola, la preside appena informata dai genitori ha attivato tutte le procedure che sono previste anche di natura disciplinare, anche di confronto con le parti, compresa quella del docente. L'ufficio scolastico regionale ha trasmesso questa mattina al Ministero tutti i contenuti di questa vicenda e quindi io credo che bisogna ovviamente anche attendere questo. Quello che mi preme dire è ecco, che la scuola è anche un luogo altamente di formazione dove ci sono tante persone che fanno il loro lavoro egregiamente, ci sono anche aspetti molto particolari su questa vicenda che in maniera riservata all'ufficio scolastico mi ha informato, credo però che le istituzioni si sono mosse tutte correttamente anche in approfondimento a quanto segnalato dai genitori e dallo stesso ragazzo e dai ragazzi che erano in classe con lui. Grazie Catiuscia Marini, Presidente della Regione Umbria, le auguro buona giornata e buon lavoro. E noi adesso torniamo sul maltempo, torniamo a Milano, oh, lo sapete, piove di nuovo mentre si continuano a contare i danni dell'esondazione del Seveso. Proprio al Seveso è dedicata l'inchiesta di oggi di Daniele Biacchessi. Se chiedi ad un ottantenne abitante nella zona nord di Milano delle esondazioni del fiume Seveso, lui si mette a ridere a crepapelle. Anche un sessantenne sghignazza perché quella della fuoriuscita delle acque del Seveso intorno a Niguarda è una storia senza fine, una storia di mala politica e, come avete visto sabato, anche mai risolta. La memoria è racchiusa in alcune foto, alcune in bianco e nero, altre ancora color seppia, fino a quelle delle ultime ore a colori. Siamo nell'autunno del 1951, piove abbondantemente e puntualmente il Seveso esonda. In un'immagine dell'epoca alcuni abitanti navigano con un canottino lungo Viale Marche. Per chi non è di Milano è una delle arterie più importanti della cosiddetta circonvallazione della città. Un'altra immagine ci riporta al 3 ottobre del 76. Il Seveso allaga la zona di Niguarda, Viale Fulvio Tessi. Davanti alla piscina Scarioni alcuni passanti portano la spesa su improvvisate passerelle in legna. Altri davanti all'ospedale di Niguarda si aiutano a spostare le vecchie 500 in panne. Stessi luoghi, stesse modalità. Decine di tombini vengono lanciati in alto dalla pressione dell'acqua. Il febbraio 1978, ottobre 79, gennaio 93, settembre 2000, settembre 2010, novembre 2012, giugno e luglio 2014, fino a sabato 15 novembre di quest'anno. Cosa si è fatto? Nulla. Sono cambiate giunte socialiste e comuniste, solo socialiste, leghiste, berlusconiane, nuovamente di centro-sinistra, nulla. Quali sono i motivi? L'intensa ed estesa urbanizzazione dei comuni a nord di Milano negli anni 70 e 80 ha costretto il Seveso a scorrere in molti tratti cementificati. Il suo corso naturale è stato deviato per permettere lo sviluppo edilizio del territorio con una serie di interventi che hanno avuto l'effetto di impedire al terreno di assorbire regolarmente l'acqua del fiume. La portata del corso d'acqua è stata poi aumentata dalla confluenza degli scoli fognari dei tombini di Paderno Dugnano, Cusano Milanino, Cormano, Bresso, Cinisello Balsamo. L'intera massa liquida dovrebbe finire nel canale sotterraneo di Via Ornato, che ha una portata teorica di 45 metri cubi al secondo, ma è sufficiente raggiungere i 40 metri cubi per provocare l'esondazione a causa dei detriti che si accumulano durante le piene. Per evitare che a Milano giunga un quantitativo d'acqua eccessivo negli anni 80 era stato inaugurato un canale scolmatore della portata di 35 metri cubi al secondo, ma non è stato sufficiente perché le piene raggiungono volumi anche di 100 metri cubi al secondo. Il comune di Milano martedì 8 luglio se l'è prese con la regione Lombardia. La regione ha dato la colpa al comune. Palazzo Marino aveva lamentato il mancato avviso di criticità da parte del centro funzionale monitoraggio rischi della regione. regione, in assenza del quale non ci sarebbe stato il tempo di aprire i tombini. Il mese scorso governo, regione, comune hanno dato l'ok al nuovo progetto da 110 milioni per le 5 vasche di laminazione previste a Senago, Paderno, Varedo, Lentate sul Seveso e Milano Parco Nord. I lavori non partiranno però prima di giugno 2015 e i cantieri dureranno forse circa un anno. Fino a quando proseguirà la vergogna delle esondazioni del Seveso? Così l'inchiesta di Daniele Biacchesi, che naturalmente trovate anche sul nostro sito. Parliamo di un disco in uscita oggi, molto atteso, quello degli One Direction. She'd be my queen since we were 16. We want the same things, we dream the same dreams, alright. Si chiama Four, ossia 4 come gli album che hanno registrato finora, così come sono 4 gli anni trascorsi da quando hanno iniziato a cantare insieme. Stiamo parlando dei One Direction, i nuovi Remida del mondo musicale. Nati sul palco della versione inglese di X Factor nel 2010, grazie ad una geniale intuizione del creatore del talent musicale più famoso del mondo, Simon Cowell, i 5 ragazzi britannici, amati ormai non più solo dalle adolescenti ma da un pubblico sempre più vasto, sono in cima alla lista degli under 30 più ricchi del Regno Unito, con un reddito di quasi 97 milioni di euro. I One Direction sono reduci dal successo dell'evento cinematografico Where We Are e freschi vincitori di 3 premi agli EMA di MTV. E Four, che si candida ad essere un nuovo successo globale dopo Midnight Memories, che è risultato il più venduto del 2013, è il loro disco più completo, un lavoro che punta a togliere ai One Direction l'etichetta di boy band. 12 dei 16 brani contenuti in questo album sono firmati dai 5, ma c'è anche un gradito ritorno, quello di Sheeran, che ha scritto 18. Four si apre con gli accordi di pianoforte di Still My Girl, il singolo che a settembre ha anticipato l'uscita dell'album e che ha subito scalato le classifiche, e il cui video, con il cameo di Danny DeVito, ha raggiunto 30 milioni di visualizzazioni. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo, c'è il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Brisbane in Australia. Mario Platero, G20 archiviato, i leader rientrati a casa, Matteo Renzi no, perché invece è andato a Sydney per un incontro con la comunità italo-australiana, devo dire molto importante, per un altro bilaterale con il primo ministro Tony Abbott, che ha guidato questo vertice, devo dire con un'agenda molto costruita, Abbott, centrata sulla dicotomia fra crescita e rigore. Il messaggio finale di questo G20, un richiamo all'Europa: basta con il rigore, che l'Europa aiuti la crescita mondiale. Ma come ormai spesso succede, gran parte delle notizie sono poi quelle fuori dal copione, quelle che giungono dagli incontri ai margini dei vertici, e qui a Brisbane ce ne sono stati parecchi, ma un tema ha prevalso su tutti: l'astio nei confronti di Vladimir Putin per le sue azioni in Ucraina, che secondo Obama sono un pericolo per il mondo. E devo dire, quello che ho percepito qui a Brisbane è un cambio di marcia. Se Putin era in qualche modo temuto, trattato coi guanti per il suo decisionismo, era considerato un grande stratega, ebbene qui a Brisbane i guanti sono spariti, molti leader lo hanno letteralmente strapazzato. Stephen Harper, per esempio, il primo ministro canadese, gli ha detto: immagino che io ti debba stringere la mano, bene, lo faccio solo per dirti una cosa, vattene dall'Ucraina. E Cameron, David Cameron, primo ministro britannico: quello che fai è orrendo, sei un bivio, metteremo nuove sanzioni. Putin non ha gradito, è partito in anticipo, non ha partecipato alla colazione finale, ma devo dire che in qualche modo è stato ripagato con la sua stessa moneta, il bullismo. Ma sentiamo Obama nella conferenza stampa finale ieri pomeriggio. If he continues down the path that he is on, violating international law, providing heavy arms to the separatists in Ukraine, violating an agreement that he agreed to just a few weeks ago, and providing us a pathway for a diplomatic resolution, then the isolation that Russia is currently experiencing will continue. Ecco, il presidente americano, devo dire, alla sua conferenza stampa dominata poi da questioni di politica interna, ma la questione Russia è stata poi la prima domanda. Obama dice: abbiamo avuto un incontro con i partner europei, la linea è la stessa, se Putin continuerà a comportarsi come si è comportato finora le sanzioni resteranno in vigore. Se rispetterà gli accordi, se farà marcia indietro in Ucraina, beh, le sanzioni potrebbero essere tolte. La mia preferenza, dice Obama, è quella di poter lavorare con la Russia, di averla partecipe nella gestione dell'ordine internazionale, sempre più debole. Non voglio litigare con la Russia. Beh, con ieri si è chiusa anche la missione asiatica di Obama, è cominciata in Cina con il vertice APEC, e il presidente qui a Brisbane ha riaffermato in un discorso importante il ruolo americano come potenza del Pacifico. Abbiamo versato il sangue dei nostri soldati per la libertà dell'Asia, siamo e saremo una potenza del Pacifico, ha detto il presidente dell'Università di Queensland sabato. È un messaggio in qualche modo alla Cina, l'America resta. Qualcuno dice che questi summit non servono a nulla, e beh, io rispondo che invece servono a molto, servono a tenere vivo il dialogo, servono a identificare quelle che sono le priorità, servono soprattutto a far sì che i leader si parlino e chissà, che trovino magari anche delle soluzioni. Ma visto che qui al G20 si è parlato soprattutto di crescita e che il nostro Presidente del Consiglio ci ha riferito che al G20 le sue proposte di riforma sono state apprezzate, diventa urgente passare dal rigore alla crescita, allo stimolo dell'economia, gli ho chiesto, una volta che queste sue proposte di riforma saranno apprezzate, cosa succederà dopo, come torneremo a crescere, potremo fare come l'America? Sentiamo la mia domanda di ieri al Presidente del Consiglio. Ecco Presidente, però c'è una questione, una volta che queste riforme saranno passate, come si procederà con i piani di investimento? Cioè, quali saranno poi le misure da adottare per rilanciare l'investimento, per attirare i capitali stranieri e dunque per crescere, per seguire dunque il piano per esempio che ha seguito il Presidente Obama e che hanno seguito altri paesi, cioè con un forte attivismo? L'attrazione degli investimenti è comunque iniziata, se voi guardate gli investimenti stranieri in questo momento in Italia scoprite che c'è un fiorire di investimenti di vario genere, perché vai dalle realtà americane che decidono di investire di più sulla società di ingegneria, sulle realtà di innovazione, fino ai nuovi investimenti dai cinesi nelle reti fino all'operazione che proprio ieri ha avuto la benedizione ufficiale dell'Europa, che è quella di Alitalia acquisita da Etihad e quindi dagli Emirati. Ve ne sono molte altre che sono aperte. Io riterrei l'Italia finalmente libera, svincolata dai legami del passato. Questo c'è, manca la seconda parte, che è proprio quella che lei diceva, relativa a un piano più attivo di investimenti. Obama che ha fatto? Obama ha buttato dei denari nel piano degli investimenti, nella manifattura tradizionale, nell'innovazione, sono nate così tante operazioni, anche quella che ha fatto ad esempio la Fiat con Chrysler, con un prestito che è arrivato dal governo americano, poi restituito da Marchionne. Questo tipo di attività è un passaggio che naturalmente richiede uno sforzo strategico che noi siamo in condizioni di fare, pensiamo di averlo pronto, ma un via libera dell'Europa, perché un piano di investimenti deve necessariamente oggi passare dalla via libera di Bruxelles, onde evitare di stare dentro i limiti rigidi del patto di stabilità. È questa la logica del piano che noi abbiamo proposto a Jean-Claude Juncker con l'operazione dei 300 miliardi di euro. In queste ore Juncker presenterà quali sono le sue idee sul piano, ne parleremo, ne discuteremo al Consiglio europeo. Io considero che in questo periodo l'Europa ha fatto dei passi in avanti, anche per effetto della forte e costante sollecitazione del semestre italiano. Parliamo di investimenti, però come voi mi insegnate, per cambiare passo occorre sempre un po' di tempo, specie in realtà come quelle europee, che sono ad alto tasso di organizzazione burocratica. E allora, con calma ma anche con grande determinazione, andiamo avanti. Il fatto che qui a Brisbane vi sia un consesso internazionale così rilevante, perché oggi abbiamo incontrato molte persone, abbiamo incontrato non soltanto le persone che avete citato ma anche altri leader dall'Indonesia al Messico, io credo dalla Cina agli Stati Uniti, io credo che tutti costoro dicano qui il futuro è la crescita e non soltanto la stabilità e il rigore, penso sia un passo in avanti. G20. ci sarebbero mille altri approfondimenti. Lei potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, chiocciola Mario Platea. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, sto per lasciare l'Australia, un paese straordinario, e voglio proporvi dei The Seekers, I Am an Australian Man, una canzone che racconta di come prigionieri britannici siano arrivati in questo continente e abbiano costruito una nazione. The Seekers, I Am an Australian. I came from the dreamtime, from the dusty red soil plains. I am the ancient heart, the keeper of the plain. I stood upon the rocky shores, I watched the tall ships come. For 40,000 years I've been the first Australian. I came upon the prison ship, bowed down by iron chains. I fought the land, endured the lash, and waited for the rains. Da Brisbane è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Ed è tutto per Effetto Giorno, i ringraziamenti, Filippo Aureggi in regia, Laura Faginni in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre, c'è la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, l'email effettogiorno@radio24.it. Ci risentiamo domani alle 13 con la trasmissione e tra poco con GR24.